Questo martedì 26 marzo, intanto i titoli, oggi le scelte sono diverse, certo la politica su tutti con le esplorazioni di Pierluigi Bersani sono la scelta per molti quotidiani di apertura. Il Sole 24 Ore apre su Il modello Cipro spaventa i mercati, questo è il titolo, l'isola nel caos dopo il varo del piano, una tantum fino al 40% sui conti oltre 100.000 euro. Per il Corriere della Sera invece l'apertura è sul fisco, conti e carte, addio ai segreti, al fisco tutti i movimenti bancari per la verifica con i redditi, questo è il titolo di apertura. La politica invece, Bersani non tratto con Berlusconi, così apre Repubblica. La Stampa invece, Bersani serve un miracolo. Libero, Bersani ma sei matto, consultazioni demenziali. L'Unità, Bersani governo senza popolo della libertà. E poi ci sono quotidiani che aprono sulla sentenza dell'Utri. Dell'Utri 7 anni per mafia, arrestatelo, può fuggire, così titola il Fatto Quotidiano. Il Giornale invece, l'ultimo agguato, arrestate dell'Utri. Il Secolo XIX, arrestate dell'Utri, questo è il titolo. Mentre per il Messaggero, conta al Senato, sfida finale, dunque l'impasse della politica. E per Avvenire, Colle e Governo, PD e PDL trattano, questo è il titolo di apertura. Come detto, la sentenza dell'Utri che è arrivata ieri in serata è una delle notizie che trovate più sviluppate sui giornali, perché si intreccia ovviamente con la situazione politica dell'Utri. Ora non è più in Parlamento, ma per tanti anni lo è stato, è molto vicino a Silvio Berlusconi. Ieri è arrivata la condanna in appello, confermata a 7 anni per associazione esterna alla mafia. Quella condanna che era stata rinviata dalla Cassazione ora è stata ripronunciata in appello. Dell'Utri condannata a 7 anni, l'accusa chiede l'arresto. Questo è il tema forse più importante, più interessante, cioè dopo la condanna alla quale ha assistito anche con il pronunciamento della sentenza lo stesso dell'Utri che era in aula, infatti ci sono tutti gli audio, poi dei commenti e delle interviste che ha fatto, la Procura Generale ha chiesto l'arresto perché ora, non essendo più parlamentare, c'è pericolo di fuga, secondo il Procuratore Generale. Non è ancora stato deciso dalla Corte se arrestarlo oppure no, o forse è stato deciso ma non è stato dato ancora l'ordine. Sta di fatto che questa è la notizia sui giornali che è più sviluppata. Anche sulla Stampa, pagina 8 e 9 dell'Utri, 7 anni in appello, la procura chiede l'arresto. E tra l'altro c'è un colloquio di Riccardo Arena con il senatore dell'Utri. Ha paura, senatore, poco prima della sentenza? No, paura no, è spaventato, però un pochino scantato. Ecco, sì, scantato, sì, lo dice così alla Palermitana. Mancano pochi minuti alla lettura del dispositivo che lo condannerà a 7 anni e dell'Utri esprime attraverso la parola scanto uno stato d'animo che non è solo paura, è timore, è premonizione, è scoraggiamento. Dell'Utri da parlamentare in carica non aveva mai assistito in aula alla lettura del verdetto. Quando decise la Cassazione 12 mesi fa era in una località sconosciuta e il suo telefonino spento rispondeva con un messaggio in spagnolo. Era verosimilmente a Santo Domingo, visto che la moglie aveva fatto una rimessa da 14 milioni in una banca della Repubblica Centroamericana proprio il giorno prima della decisione. Erano i soldi dell'amico Silvio Berlusconi, che per me è stato un benefattore, ma anch'io sono stato un benefattore per lui e per le sue aziende, tiene a precisare il fondatore di Publitalia. Stavolta invece era in aula, ma evidentemente, scrive la Stampa, la circostanza non deve essere sfuggita al procuratore generale Luigi Patronaggio per sottolineare il pericolo di fuga e dunque chiederne l'arresto. Tra l'altro su questo si è espresso ieri Piero Grasso, il presidente del Senato, che era a Piazza Pulita per l'eterna di sfida duello con Travaglio, e Grasso ha detto, come sottolinea il Corriere con Giovanna Cavalli a pagina 19, sono meravigliato per la diffusione della notizia dell'arresto da parte di un'agenzia di stampa, che l'arresto forse si fa via email, che si sappia prima che vi sia l'ordine è un qualcosa strano. Non credo che dell'Utri scappi, ma è una precauzione elementare. Effettivamente poniamoci nella situazione in cui dell'Utri sa da ieri sera che è stato richiesto il suo arresto. Per carità, lasciamo quei puntini di sospensione. Il mio romanzo criminale può finire in prescrizione, sia su Repubblica che sul Corriere ci sono raccolte le prime sensazioni di Dell'Utri dopo la sentenza, racconta Felice Cavallaro, per esempio, sul Corriere della Sera, pagina 19, prima l'attesa e poi appunto questo riferimento al romanzo criminale. Riferisce Dell'Utri: io non ho introdotto la mafia a Milano, ma un signore chiamato Vittorio Mangano, che all'epoca non aveva alcuna pendenza. È un eroe, è il mio eroe, come nei romanzi russi. Dire che ho ancora fiducia nella giustizia sarebbe ora una parola grossa. È un romanzo criminale, un romanzo che continua. Ci rendiamo conto che si parla sempre di cose vecchie, di 37 anni? Uno come fa a difendersi da accuse ricostruite dopo una vita? E poi a una cronista insolente, decisa a infiorire sul buon Silvio, che a 76 anni continua con i lifting, ecco la risposta di Dell'Utri: ma quello è un vero torello, lo è sempre stato, è di una vitalità incredibile. E infine dice: spero nella prescrizione, perché no, dovesse arrivare farei come Andreotti, direi che è meglio di niente. Spero nella prescrizione, la vita va avanti. Così Marcello Dell'Utri è, insomma, arrivata la condanna a 7 anni e ora la richiesta anche di arresto, si dovrà pronunciare la corte e ripeto, può darsi che si sia già pronunciata, però queste cose forse è meglio appunto che non si sappiano prima. Voglio, prima della pubblicità, regalarvi questa chicca che già nel Parlamento un pochino abbiamo accennato e che riguarda Giuliano Amato. Dovete tenere ben salde, saldissime le mani sul volante, anzi mani sul volante in questo momento diventa un urlo quasi che voglio sentirvi dire, se siete ovviamente in macchina, se siete a casa come al solito appoggiate tutto ciò che avete di tazze bollenti, perché rischiate veramente di ustionarvi al sentir dire le parole che, secondo Libero e Il Fatto Quotidiano, Giuliano Amato ha pronunciato ieri o nei giorni scorsi quando era a tenere un master all'università Lewis. Libero la mette così: mister tre pensioni, giovani dormirete in auto. Che cosa ha detto Giuliano Amato, colui che per Libero dice gode di tre pensioni e percepisce 31.000 euro al mese tra pensione INPDAP e vitalizio da parlamentare, sono due per la verità le pensioni. Ha detto a tanti giovani che erano lì ad ascoltarlo al master della Lewis: quando tanti giovani arriveranno alla pensione dopo uno slalom tra diversi lavori, si ritroveranno con una pensione miserabile, con cui non potranno vivere e si ritroveranno a dormire in auto. Firmato Giuliano Amato. E Libero dice: ma come? La lezione di Amato alla Bocconi: quando finirete di lavorare avrete un vitalizio miserabile. Lui, con 31.000 euro al mese, non ha problemi di questo tipo, invece di tagliare i costi della casta di cui fa parte, scrive Libero, chiama alla rivolta generazionale. Anche Il Fatto Quotidiano, pagina 5, Amato attacca le pensioni d'oro e senza ridere, avrebbe detto anche, sono troppe le differenze tra le pensioni ricche e quelle povere. Con la riconosciuta cognizione di causa, scrive Il Fatto, l'aspirante presidente della Repubblica ha insistito: non è possibile che lo Stato assegni ad alcuni molto di più di quello che serve loro e a molti di più dia meno del necessario alle loro esigenze di vita. Ancora una volta ha finito la frase senza scoppiare a ridere. Quando si dice la professionalità. E insomma, mister tre pensioni per Libero dice ai giovani: molti di voi dormirete in auto e avrete una pensione miserabile. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, le esplorazioni, stavo dicendo le consultazioni, ma quelle ci sono già state, le esplorazioni di Pierluigi Bersani. La barra è fissata a giovedì, quando Pierluigi Bersani tornerà al Quirinale per riferire. Io ho lanciato sul mio profilo Twitter Alino Milan, fate con calma, fate con calma, no? Che evoca un po' all'incontrario quel fate presto, ma fate con calma. Sembra che ci sia, per carità, anche sui giornali questo racconto molto ovattato di tutte le di parti che hanno dei ruoli ben definiti, e tra l'altro vedremo che qualcuno inizia in qualche modo a dire: ma insomma, non si può dare un'accelerata a tutto questo. Secondo Libero addirittura c'è Napolitano che sarebbe un po' infastidito nei confronti di Bersani, perché aveva detto fate nel più breve tempo possibile, invece vede un po' dei riti e delle esplorazioni un po' che vanno per le lunghe. Comunque dal punto di vista politico Emilia Patta racconta sul Sole 24 Ore, pagina 8, il nuovo no di Bersani a Berlusconi, perché a un certo punto ieri Berlusconi ha lanciato proprio l'idea Bersani premier, Alfano vice, cioè un governo di larghe intese. Un governo con il PDL non è serio, ieri lo ha ribadito Bersani alla direzione nazionale del partito, iniziata con un allarme vero e proprio. Ha detto Bersani: questo paese è nei guai, tra giugno e luglio arriva l'IMU, l'IRES, la TARES, non ci sono gli ammortizzatori e mi fermo qui. Parlando alla direzione del Partito Democratico, ha detto Bersani: le priorità sono economiche e sociali, dal pagamento delle imprese e dei debiti della pubblica amministrazione, all'esigenza di allentare il patto di stabilità. Se uno facesse la somma di tutte le esigenze impellenti, ricaverebbe che serve un governo dei miracoli. Miracoli non se ne fanno, ma uscire dalla crisi si può. Ecco, questo governo dei miracoli lo troverete un po'... la frase del giorno è il titolo che troverete un po' ovunque. Già, ma giovedì che succederà? Perché in tutte queste esplorazioni il punto chiave è che non ci sono i numeri. Ancora siamo lì a capire come trovare i numeri, anche se qualche retroscena oggi dai giornali regala qualche chicca, tra poco le vedremo. Giovedì, racconta Francesco Verderami sul Corriere della Sera, in uno scenario di quello che potrebbe succedere quando si rivedranno Bersani e Napolitano, ecco, lo trovate a pagina 6, i numeri e il bivio di Napolitano, il rischio di un braccio di ferro. Cioè il rischio del braccio di ferro potrebbe essere questo. L'appuntamento al Colle, scrive Ser Verderami, si preannuncia delicato. C'è il rischio che le tensioni già evidenti tra capo dello Stato e leader democratico possano trasformarsi in conflitto. Perché? Cosa farà Bersani? Tenterà di forzare la mano, chiedendo al capo dello Stato il mandato pieno per verificare in Parlamento se il suo governo può conquistare i numeri sufficienti a garantirgli la fiducia? E come si comporterà Napolitano? Accoglierà la proposta del preincaricato o si disporrà la costruzione di un gabinetto del presidente su cui dovrebbero convergere i voti di PD e PDL? Ecco, questo è il nodo, il rischio del duello, perché effettivamente uno scenario che si profila è che Bersani possa cercare di ottenere o la fiducia perché qualcuno l'appoggia, tipo Monti, o la fiducia perché qualcuno esce dall'aula, come la Lega, che potrebbe uscire dall'aula e quindi abbassare il numero legale per ottenere la fiducia. Oppure si ipotizza, e qui siamo sul retroscena di Repubblica, che ci siano addirittura dei senatori del popolo di centrodestra, diciamo, appartenenti al cosiddetto GAL, Gruppo Autonomia e Libertà, pronti a sostenere Bersani. Oppure ancora si vede con attenzione a quello che potrebbero fare alcuni del Movimento 5 Stelle. Allora, alla luce di questo, Bersani potrebbe dire a Napolitano: si fidi, ho i numeri. E Napolitano che fa? Si fida e dice: va bene, prova ad andare in Parlamento rischiando di andare incontro a pestare la faccia contro il muro, oppure non si fiderà? Ecco, questo è lo scenario ipotizzato da Verderami. A proposito del retroscena di Repubblica che trovate a pagina 7, eccola qui, la squadra della maggioranza variabile in aiuto al PD, ma solo se lo vuole Silvio. Si parla di 5-6 senatori, come racconta Tommaso Ciriaco, pronti a traslocare per evitare che la legislatura perisca di morte violenta. Di questi senatori, 5 provengono da Grande Sud e Movimento per le Autonomie. Li guida Mario Ferrara, eletto nelle liste di Micciche. Sarà ricevuto oggi da Pierluigi Bersani per le consultazioni democratiche. Non si sa, però, non ci sono parole, sono tutti retroscena. Sarebbe Micciche a fare proprio da regia, in modo che alcuni possano fare la stampella dal centrodestra al Partito Democratico. Sta di fatto che queste consultazioni danno anche esplorazioni la stura a qualche polemica e anche qualche ironia. Libero è esplicito in prima pagina: Bersani, ma sei matto, consultazioni demenziali. Ieri, scrive Libero, ha continuato a perdere tempo, ha incontrato il CAI, il WWF, Don Ciotti, Lega Ambiente, ma anche altre associazioni, tanto che Paolo Crecchi è una penna molto affilata, molto acuta del secolo XIX, sentite cosa racconta a pagina 4 del Secolo: dagli alpini ai sindacati tutti bussano al quasi premier, c'è anche Don Ciotti. E lassù sulle montagne, inizia così l'articolo, no, di Paolo Crecchi. Ebbene sì, anche il CAI, il Club Alpino Italiano, ha partecipato al rito delle consultazioni e il fatto che fosse rappresentato dal napoletano Agostino Esposito in una sorta di solidarietà nazionale che equiparava al Vesuvio, al Monte Bianco, aggiunto un tocco di soavità ai convenevoli del presidente incaricato. Bersani, lei è qui per... Esposito, la tutela dell'ambiente montano. Ah, mi piace molto la montagna, Bersani. Esposito, alte vette, larghi orizzonti. Sarebbe ingeneroso, scrive Crecchi, unirsi al coro degli sfottò che ieri hanno accompagnato gli sforzi dell'aspirante premier, convintissimo anche a sera di aver fatto la cosa migliore ascoltando le istanze di settori importanti della vita italiana. Dunque il CAI, certo, convocato insieme al Touring Club, alle sigle ambientaliste, al Touring Club che attraverso il suo dirigente Marco Lione ha vagheggiato un turismo legato alla qualità del territorio, ma poteva sfuggire tanta sensibilità nei confronti della società civile al feroce disincanto romano? Ed ecco allora la battuta, mocce manca che senta pure le mignotte se non c'hanno esperienza loro. In senso figurato, scrive Crecchi, poi azzardandosi, qualcuna Bersani l'avrà sentita e la sentirà anche oggi al primo piano di Palazzo Montecitorio quando incontrerà le delegazioni dei partiti. Ma intanto ha tastato il polso a un'Italia in emersione rapida, quella che in gran parte ha votato Grillo, gli ambientalisti, i pacifisti, i volontari, gli antimafia del territorio, gli idealisti tout court. Facevano tenerezza ieri a sera i federalisti europei ai quali nessuno rivolgeva lo straccio di una domanda e si ingegnavano a spiegare con Lucio Levi che l'unione politica non può prescindere dalla solidarietà. I soldi si trovano, per bacco abbiamo pensato a una tassa sulle emissioni di ossido di carbonio, un gettito tra i 300 e i 600 miliardi di euro, mica noccioline. Insomma, queste anche le consultazioni di Don Ciotti, tra l'altro, prete, antimafia, fondatore di Libera, sentito proprio nelle esplorazioni o consultazioni da Bersani, intervistato da La Stampa, siccome è uno dei toto ministri papabili, dice: io ministro non ne sarei capace. Intervistato da Niccolò Zancan, dice: io ministro in pectore ho letto, ho ricevuto delle mail, ma non è vero, nessuna proposta, mai. Mai accetterei, non è il mio mestiere, non sono capace, sono felice di spendere la mia vita come ministro della Chiesa. Certo, sono sinceramente preoccupato, ho visto in Bersani anche molta determinazione, però passione politica ce la sta mettendo tutta, insomma ho visto spirito di servizio. Insomma, un Don Ciotti che però dice: non tiratemi dentro come ministro. Secondo Repubblica, anche secondo Repubblica, il braccio di ferro ipotizzato da Francesco Verderami sul Corriere è un'ipotesi che giovedì potrebbe anche verificarsi con Napolitano, perché al segretario mancano ancora numeri certi, scrive Goffredo De Marchis a pagina 3 di Repubblica, ma a Napolitano chiedo di andare in Parlamento. Insomma, ha una carta segreta che potrebbe svelarsi proprio magari nel segreto del voto sulla fiducia, questo Bersani, e Napolitano si azzarderà a lanciarsi in questa via un pochino rischiosa. Ecco, questo è un po' il nodo che terrà banco fino a giovedì. Intanto incontrerà i partiti minori e più importanti a partire da oggi Bersani. Berlusconi non andrà faccia a faccia, ieri lo ha detto Alfano. Mentre Beppe Grillo andrà molto probabilmente domani, e attenzione, il giornale ha un retroscena, secondo il giornale, secondo Andrea Cuomo a pagina 7, Grillo ha un supernome che proporrà a Bersani. Qual è questo supernome come premier alternativo a Bersani? E dire: no, caro Bersani, metti premier costui. Chi è costui? Allora, sarà fantapolitica oppure no, ma il giornale scrive che domani Grillo proporrà un supernome a Pierluigi Bersani, vale a dire Giorgio Napolitano. Ebbene sì, gli elementi secondo il giornale sono questi. C'è anche questo fuori onda in cui Beppe Grillo, uscito dal Quirinale delle consultazioni con Napolitano, ha detto ai suoi Vito Crimi, Roberta Lombardi: ma l'ho trovato molto più sveglio del previsto, dobbiamo cambiare il nome Morfeo col quale l'ho sempre soprannominato. E addirittura per il giornale sarebbe pronto Beppe Grillo andare da Bersani domani, credo alle 10 si vedranno, per dire: propongo Giorgio Napolitano premier. Beh, sarebbe una cosa effettivamente anche un po' istituzionalmente molto strana. Chissà se rientra nel retroscena oppure no. Uè, Franco Battiato invece ne ha dette di ogni. Fa un'intervista al Fatto Quotidiano, sentite cosa dice. Vabbè, fa un invito a Beppe Grillo, no? Da due giorni dice Beppe Grillo ora sta esagerando, e quindi lo invita a fare un governo, a votare un governo con Bersani o senza, ispirandosi al modello Sicilia. Sentite poi Franco Battiato, il maestro Franco Battiato, dall'alto della sua sicumera, cosa dice riguardo alle elezioni in Lombardia. La prende alla lontana in questa intervista di Caterina Perniconi, parla di Berlusconi e la sua manifestazione. No, non l'ho vista, era all'estero, non mi interessa. La piazza era piena, Battiato, ma ci sono state anche flop a Napoli, per esempio, a Milano, dove voleva volare e invece ha vinto Pisapia. Beh, alle ultime elezioni ha vinto Maroni. E sentite la risposta di Battiato, eh? Alle ultime elezioni in Lombardia ha vinto Maroni, Battiato. A Milano ha vinto Ambrosoli, ma la provincia è ignorante. Cari cittadini lombardi, avete sentito? Se siete di Milano, siete bravi, avete votato Ambrosoli. E gli altri? Ignorantoni. E se invece che ignoranti volessero semplicemente indietro l'IMU, chiede il Fatto. Ecco, sono ignoranti, ribadisce Battiato, perché l'IMU l'ha votata anche Berlusconi e non avrebbe nessun modo per restituirla, ma se ascoltano solo le informazioni veicolate dalle sue TV non miglioreremo. Ma Battiato viene attaccato soprattutto dal Giornale per un qualcosa che ha detto mentre era a Parigi qualche giorno fa per la presentazione di qualche suo concerto. Battiato spara sul centrodestra, e in prima pagina l'ultima sparata di Battiato: la destra è disumana. Cosa ha detto, racconta Francesco Maria Del Vigo a pagina 6 del Giornale, Franco Battiato: la destra italiana è una cosa che non appartiene agli esseri umani. Capito? Siete delle bestie. Questo non l'ha detto Battiato, ma è la conclusione a cui arriva il Giornale. Se ne è uscito proprio così Franco Battiato, a margine di un concerto a Parigi durante il tour promozionale del suo ultimo disco. La destra, insomma, è disumana, non appartiene agli esseri umani, è aliena, peggio che impresentabile di Lucia Nunziata, insomma. Tanto che il Giornale fa un commento anche con Vittorio Macioce e dice: parla come i nazisti, come quando i nazisti con Goebbels dicevano gli ebrei non appartengono al genere umano. Beh, insomma, adesso il paragone tra Battiato e Goebbels francamente l'avrei lasciato anche da parte. Comunque Franco Battiato dice: la destra italiana non appartiene agli esseri umani. In tutto questo, mentre fate con calma, la situazione economica vede ovviamente il timore per quello che è successo a Cipro, dove la lezione è molto semplice, ve la traduco in parole povere, cari italiani: i governi fanno i disastri e la gente ci rimette i soldi. Questa è la traduzione di quello che succede nell'Unione Europea, è successo a Cipro e succede in tutti gli altri paesi dove si chiedono i finanziamenti, si chiedono le riforme, cioè la politica, i governi fanno i disastri, lo ribadisco, e poi dopo, quando bisogna mettere mano al portafogli, vi vengono a prendere tutti, vi conoscono per nome e cognome, vi vengono a prendere tutti. E questo è un po' quello che è stato fatto anche a Cipro, dove Cipro si è salvata, le banche e i clienti no. Il titolo più efficace è il Corriere della Sera, pagina 12, ed è effettivamente così. Leggete anche il Sole 24 Ore a pagina 2 per capire quello che è tutto il piano di rientro per Cipro. Cipro: pagano i creditori delle banche. L'Eurogruppo dice un modello di salvataggio, poi corregge il tiro, un caso unico. Ecco, anche qui il giallo. Ma com'è possibile? Questo ministro delle finanze olandese, un nome Gisselbon, come si chiama, come diavolo si chiama, che dice: sì, Cipro è un modello di salvataggio, ma questo vuol dire che potrebbe capitare anche a tutti gli altri? E poi no, la correzione dopo un paio di giorni, dopo un paio di ore, no, è un caso unico, non è un modello di salvataggio. Bene, e quelle cose che rassicurano molto vuol dire che siamo affidati a funzionari che sanno benissimo quello che fanno. D'altronde racconta in un profilo il Secolo XIX a pagina 2 che questo Gisselbaum è un po' così un gaffeur, un ministro che ama allevare maiali nella campagna dove vive, qui non c'è niente di male. Una volta, pochi giorni fa, disse: scusateci, ma non contiamo davvero nulla, in pratica, disse così, dell'Unione Europea. D'altronde il capo adesso dei ministri delle finanze, dell'Eurogruppo, e perché è stato scelto lui che è olandese, spiegano a Bruxelles: il posto toccava a un olandese. Ecco, queste sono le altre cose che rassicurano molto a dire che c'è davvero un controllo stringente, molto ferreo e sicuro di quelli che ci controllano dall'alto. Detto questo, dall'Unione Europea è arrivata un'altra bella sorpresa. Io ve l'avevo detto, cari italiani, guardate, fate attenzione, non è che questa cosa del pagamento dei debiti delle imprese, o meglio dei crediti alle imprese, sia una super cazzola clamorosa. E beh, che cosa ha fatto l'Europa? Un dietrofront. Prima ha detto, caro governo italiano, puoi sbloccare i debiti delle imprese, o meglio sempre i crediti, è meglio dirlo dalla parte di quelli che devono ricevere i soldi, i crediti delle imprese. E poi adesso ha fissato i paletti nel giro di due giorni, sia la flessibilità di bilancio, ma dovete restare sotto i parametri del 3%. Eccolo lì, deficit e debiti della pubblica amministrazione, i paletti dell'Unione Europea. Beda Romano spiega tutto con dovizia di particolari a pagina 11 del Sole 24 Ore. E infatti ieri Mario Monti, il Premier, in Parlamento ha detto, come racconta Marzio Bartoloni, sempre sul Sole a pagina 10, crediti tutti subito, non si potrà. Eccolo lì. Prima l'annuncio, poi i paletti dell'Unione Europea, poi il dietrofront, e poi, si spera di no, la supercazzola in arrivo. Vi racconto infine un articolo di Repubblica. Dopo la decisione del CONI di sospendere i biglietti gratis per tutti i politici, il fatto che Repubblica, con Antonio Fraschilla e Fabio Tonacci, fa una carrellata di quelle che vi rende felice, anche qui mani sul volante ben strette, di tutti i privilegi che ci sono ancora: porte aperte all'Olimpico, dall'Olimpico alla Scala, se l'assessore ha sempre un posto in prima fila. Pagina 1 e 19 di Repubblica. Entrano gratis, si portano pure gli amici a Roma. Pochi credono che Gasparri, D'Alema, Storace non potranno più entrare gratis. A Firenze, prima di ogni partita, sul sindaco rottamatore Renzi, sulla scrivania 126 biglietti omaggio. E ancora a Milano, per ogni evento che si tiene allo stadio Meazza, 80 ai consiglieri comunali. E così a Napoli, Luigi De Magistris sempre a fianco al presidente De Laurentiis. E non pagano. Ora pagheranno? Chi lo sa? Intanto il giornale radio.